Episodio 4. 8. Ascolta l'intervista. Fabrizio Paladini, direttore del quotidiano Metro. Lei è il direttore di un quotidiano. Questa professione corrisponde a quello che avrebbe voluto fare da sempre, diciamo? Ma la professione del direttore di quotidiano no, la professione del giornalista in parte. Nel senso che io in realtà volevo fare tutt'altro. Finito il liceo, ho provato a fare l'università, non mi piaceva. Allora ho trovato un modo per scappare, come spesso capita, e avevo trovato un bellissimo imbarco su una barca a vela che sarebbe andata a lavorare ai Caraibi. Lì contavo di rimanere a bordo di questa barca meravigliosa, che era una goletta di 36 metri, si chiamava Aurora, ancora me la ricordo, e sarei dovuto rimanere qualche mese lì e poi chissà, hai visto mai, no? Da cosa nasce cosa, insomma. Quella, il disegno della mia vita era questo, fare un pochino l'avventuriero, no? Ma come capita, penso, a tutti quanti a 20 anni, 22 anni. Poi un po' una tempesta nel Mediterraneo, un po' un grande litigio tra i proprietari della barca. La barca non partì più e io mi trovai a Roma. A quel punto avevo perso l'università, mio padre mi disse: ora o lavori o te ne vai fuori dalle scatole, fondamentalmente. E allora cominciai a fare, siccome mi piaceva scrivere, ho detto: bah, vabbè, come ripiego, proviamo a fare questa cosa. Questa cosa andò bene e tutto sommato allora, quando cominciai 25 anni fa, credo che fosse il lavoro più bello. Oggi penso sia molto cambiato e quindi rimane la realizzazione di un sogno con gli occhi di allora. Ma se oggi dovessi consigliare a qualcuno di fare questo lavoro, non lo consiglierei. Bene, e potendo, se potesse, a cosa vorrebbe dare più spazio nel giornale di cui lei è direttore? Ma se potessi vorrei avere il doppio, se non il triplo, dello spazio. Purtroppo questa cosa costerebbe tanti soldi in più e quindi non ce lo potremmo permettere. Ma se potessi, io darei più spazio ancora, darei ancora più spazio alla parte che secondo me oggi ha più spazio di tutti su Metro, ovvero la rubrica delle lettere, perché la rubrica delle lettere, che è la parte più viva in cui i nostri lettori interagiscono, ci chiedono, ci sgridano, ci attaccano, ci difendono, ci applaudono, ma insomma è il segnale della nostra popolarità, è il segnale del nostro successo. E quindi io credo che, se è vero, come penso, che questo giornale appartenga soprattutto ai lettori, perché è un giornale che si regge esclusivamente sul consenso del lettore, e appunto mi piacerebbe potergli dare ancora più spazio nelle nostre rubriche. Capisco. Ultima domanda forse, se lei dovesse dare consigli ad un giovane aspirante giornalista oggi, cosa gli consiglierebbe? Di prendere quella famosa barca, di fare in modo che non ci sia una tempesta e di trovare dei proprietari che non litighino e di andare il più lontano possibile. Grazie.